grazie di essere qui con noi, nonostante il tempo inclemente, ma ormai siamo abituati a questa fine ottobre, un po' tempestosa. E la serata sarà invece una serata molto piacevole, come sempre sa regalarci Ettore Frangipane con il suo nuovo libro, Bonzano scomparsa 14, e abbiamo con noi questa sera anche Mara Daroit che ci allieterà e ci introdurrà, ci accompagnerà in questa presentazione leggendo alcune pagine del libro che andiamo a presentare. Approfitto sempre di questi preziosi momenti quando venite qui a trovarci perché vogliamo far conoscere quello che facciamo e le iniziative che sono in serbo per voi nei prossimi giorni. In particolare il 6 novembre, sempre alle 17:30, avremo la presentazione del libro Camicie Nere in Alto Adige, Maurizio Ferrandi, Hannes Obermeier saranno gli ospiti e verrà moderata la serata da Gabriele De Luca. Poi il giorno 8 novembre invece, sempre alle 17:30, avremo come ospite il professor Giorgio Dobrilla che ci presenterà il suo libro C'è sempre da imparare, la nuova edizione del 2023, e quindi ci troveremo di nuovo in questo contesto per conoscere il nuovo libro, la nuova pubblicazione di Giorgio Dobrilla. Infine, il 15 di novembre, mercoledì, ci troveremo di nuovo con un gruppo di lettura, che è una cosa che stiamo portando avanti da alcuni anni dopo il Covid, un modo di incontrarci, di leggere, di discutere insieme su alcuni argomenti. I gruppi di lettura sono due, uno è localmente dedicato alla narrativa del territorio, si trova sempre di mercoledì alle 17:30, e un altro invece è Tutti Saggi. In questo caso è il gruppo di lettura dedicato all'Officina del Pensiero, e questa volta saranno con noi Rosa Infelice Fronza e anche Bruna Maria Dal Lago Veneri, che ci parleranno della luce e dell'ombra, ecco questo concetto che verrà così indagato e discusso insieme a voi attraverso alcune letture. L'appuntamento è il 15 novembre alle 17:30, ma adesso torniamo con la presentazione del libro di Ettore Frangipane, che ringrazio ancora. Abbiamo così salvato diciamo delle immagini col telefonino, le abbiamo caricate sul computer, quindi non ci sarà un layout molto bello, non ci sarà una risoluzione precisa, ma questo sarà utile comunque nella narrazione, anche se Ettore Frangipane non ne ha bisogno, ecco, però ci teneva ad avere un accompagnamento con le foto, e quindi non mi resta che augurarvi una piacevole serata, invitarvi a venirci a trovare e a seguire l'iniziativa della biblioteca. Grazie, e grazie a Ettore e a Mara. Mara, che vorrei vedere al mio fianco. È uscita, benissimo. Allora, siamo in piena emergenza, non solo per il tempo, siamo in piena emergenza per una ragione molto semplice, che io, che sono ho un certo valore, forse come giornalista, forse come vignettista, forse come affabulatore, sono uno zero totale per quanto riguarda tecnologia. Quindi io ho fatto una chiavetta perfetta, precisa, con tutta la successione delle fotografie nell'ordine dovuto, l'ho portata qua e ci siamo resi conto che ho fatto una fesseria, perché non si riesce a vedere niente. Però la dottoressa Trevisan con l'amico Patrick Urru, ma come, dov'è il giovane dei miracoli? È lui il giovane dei miracoli. Sono riusciti a fare una cosa incredibile. Hanno fotografato rapidamente, su mia indicazione, alcune cose, alcune illustrazioni di questo mio ultimo libro, e me le hanno messe qua in ordine fantasioso. Non è più l'ordine di prima, quello che io prevedevo, ma vediamo se, improvvisando, c'è una canzone di tanto tempo fa, non so se ve la ricordate, Il maestro improvvisa. No, ve la ricordate? Il maestro improvvisa, che atmosfera di pace, bellissima. Il maestro improvviserà, vediamo un po' se il maestro è tale. Dunque, parleremo di Bolzano scomparsa numero 14. E avrei dovuto fare anche un'intervista con, grazie, Per la RAI, ma vedo che la RAI non è venuta, evidentemente i potenti mezzi che mi hanno sostenuto tanto tempo fa e in tante occasioni si sono annacquati durante questo inizio di maltempo che stiamo vedendo. Quindi siamo in piena emergenza, ve lo ripeto, e vi racconto di questo Bolzano scomparsa 14 che fa seguito all'1, 2, 3, 4, 5. Mi hanno chiesto: ma perché siamo arrivati a 14 e tutte le volte dice che questo è l'ultimo anno e poi ci sarà il successivo? Perché arrivati al numero 1 pensavo che era poco, e anche perché mi venivano tanti spunti, leggevo tanto, o io ho letto i giornali che si stampavano a Bolzano, quando si chiamava soltanto Bozen, nel 1850 fino al 1950, quanto si poteva dire soltanto Bolzano. Quindi ho davanti a me uno spettro, un ventaglio di giornali, non so quante notizie ho letto, un'ira di Dio, dalle quali ho tratto tutte queste notizie che adesso vi verrò via via raccontando. E dopo il primo numero, visto che c'era materiale per un secondo numero, visto che ce n'era anche per il terzo, la gente ha cominciato ad affezionarsi, mi avvicinavano, mi telefonavano, mi mandavano messaggi: ma io ci avrei una nonna che... E allora di nonna in nonna sono riuscito a costruire qualcosa come 14 volumi, e ne avrei anche per i volumi prossimi, per gli anni prossimi. Però vi confesso che comincio a essere anche un pochettino stanco. Ecco. Dunque, questo è il 14° numero. Cosa vedete qua? Oh, allora io vi dirò che dovrei adesso trovare il puntatore, perché esiste anche il puntatore. Io il puntatore non lo trovo e lo lascio perdere. In questo numero vedete me che intervisto Klaus Di Biasi. A sinistra Carlo Di Biasi, che è un personaggio, è stato un bel personaggio Carlo Di Biasi. Carlo Di Biasi, come altri altoatesini, è passato da una cittadinanza all'altra. Era italiano, ha optato per la Germania ed è diventato cittadino germanico. Poi, quando la guerra è terminata, si è trovato in Tirolo, a Innsbruck, mi pare, e spiazzato, perché gli italiani non li riconoscevano più fuori. E nel frattempo era nata l'Austria. Allora, è passato dalla cittadinanza italiana, campione italiano di tuffi, alla cittadinanza germanica, campione tedesco di tuffi, alla cittadinanza austriaca, campione austriaco di tuffi. Vede, questo è il bello dell'Alto Adige, questo, è che noi abbiamo un Sinner che è austriaco, è italiano perché c'è stato, l'ho scritto di recente, c'è stata una piccola truffa ai tempi della definizione dei confini dopo la Prima Guerra Mondiale. La commissione internazionale che ha dovuto presiedere, ha dovuto definire i confini, il nuovo confine tra l'Italia e l'Austria, acciullato un po' nel manico, come si suol dire, avrebbe dovuto seguire la linea dello spartiacque, ma secondo la linea dello spartiacque, San Candido, dove è nato Jannik Sinner, sarebbe austriaca, perché la sorgente della Drava che sfocia nel Danubio, che sfocia nel Mar Nero, e non ha nulla a che vedere col versante italiano, con i fiumi che sfociano nel Po, nell'Adriatico e cose così. Per cui praticamente si è dovuto... è capitato una cosa che spesso capita. la ragione sempre del vincitore. Aveva vinto l'Italia e quindi è stata sottratta, questo è stato sottratto questo principio all'Austria, alla definizione del confine, e Jannik Sinner oggi è italiano. L'ho sentito ieri che parlava al coso, al microfono, e a parte il fatto che parla italiano, tedesco, inglese e forse qualcos'altro ancora. E lui ricordava con piacere la sua origine austriaca, tirolese e sudtirolese, perché anche loro fanno queste differenze, no? Bisto a Südtiroler, Naipina Nordtiroler. Ma non esistevano né sudtirolesi né nordtirolesi una volta, esistevano soltanto tirolesi. C'è qua il mio amico Franco Kettmeier che ne sa qualche cosa, perché qualche calcio ai confini li ha dati anche lui. Comunque mi fanno cenno che sono troppo lungo e allora andiamo rapidi. Dunque, questo è un momento di storia italiana, Alto Atesina, adesso ci muoviamo. E come si fa a muovere questo? Ecco qua, volevo far vedere no, è decisamente, anche questo può valere, è una cosa interessante questa fotografia qua, sì, ne parliamo poi. Dunque, si è visto però anche in questa fotografia una fortezza volante. Questo è un B-25, durante la guerra sono usciti dalle fabbriche americane qualcosa come 18.000 aerei di questo tipo. 18.000, vabbè che avevano più campi di guerra, compreso il Giappone, tutte queste cose qua da coprire, ma pensate un pochettino che potenza avevano gli americani e noi che abbiamo dichiarato guerra agli Stati Uniti. Dunque, queste erano le fortezze volanti, dette anche nel caso specifico, perché questa è una delle fortezze volanti che bombardò Bolzano, e dette anche bare volanti. Perché? Perché si chiamavano fortezze anzitutto? Perché disponevano, e vorrei vedere adesso il mio, come vedete la mia disorganizzazione è completa, no? E vediamo se riesco a essere disorganizzato al punto da non trovare più il puntatore. L'ho trovato, non sono totalmente disorganizzato. Dunque, si chiamavano fortezze volanti perché erano autosufficienti. Un grosso aereo come questo, che veniva da lontano e percorreva lunghi percorsi. Pensate che le fortezze volanti che bombardavano Bolzano venivano inizialmente dalla Corsica, poi avevano trovato campi d'atterraggio in Puglia. Quindi questa fortezza è arrivata in Puglia per bombardare dalle parti nostre. Ha bombardato, ve lo dirò poi nei particolari, nella zona di Bressanone. Nel fare questi lunghi tragitti, questi aerei cosa avevano di particolare? Avevano di particolare che erano esposti assolutamente alla caccia nemica, perché adesso riesco a trovare il bottone giusto, perché non c'era nessun caccia che potesse proteggere gli aerei dall'aggressione dall'altra caccia, no? Questi volavano liberamente nell'alto dei cieli italiani, che dovevano essere almeno teoricamente dominati dalla caccia italiana e dalla caccia tedesca. E allora li avevano dotati questi aerei li avevano dotati, premiamo il bottone giusto, eccolo qua, di aprua, non si vede sulla coda, non si vede sotto, purtroppo, e sul dorso li avevano dotati di mitragliatrici, per cui questi aerei, questi bombardieri, questi B-17 o 25, fortezze volanti, erano così definiti perché erano nelle condizioni di autodifendersi. Non avevano bisogno della loro caccia, in altre parole, no? Questo aereo è stato fotografato sopra Bressanone, perché dovete sapere una cosa, che tra le tante bombe che sono cadute e sono state fatte cadere sugli obiettivi bellici e non solo quelli in Alto Adige, c'era anche e soprattutto la linea ferroviaria del Brennero. Dunque, io a questo punto però vorrei sentire anche la voce di Mara Daroit. Mara Daroit, che è lì è seduto con noi, ecco, e che ringrazio della sua buona volontà, e ci legge il primo pezzo, quello che narra di quello che avvenne il 28 febbraio del 45 al ponte ferroviario di Alves, a sud di Bressanone. Ecco, questo è un brano tratto da un giornale dell'epoca. Sentiamo Mara. Il 28 febbraio del 1945, il ponte ferroviario di Alves, a sud di Bressanone, fu bombardato da aerei americani. Uno di questi fu centrato dalla contraerea germanica e precipitò sulla Plose, nei pressi di Malga Penider. La guerra stava volgendo al termine. Americani e alleati stavano risalendo la Valpadana con meta a Bolzano. Ma i bombardamenti lungo la linea ferroviaria del Brennero, strategicamente importante, proseguivano. Gli aerei USA decollavano da piste lontane, addirittura da Lucina, in provincia di Foggia, da dove erano partiti quel 28 febbraio con i loro carichi di bombe, velivoli degli stormi 304 e 47 del tipo Liberator. Si trattava di quadrimotori con ala medio-alta e il caratteristico doppio timone ovale. Raggiungevano una velocità di 488 km orari, ma volavano a una quota pericolosa perché raggiungibile dalla contraerea e dalla caccia. Per difendersi da quest'ultima, ogni aereo disponeva a bordo di 10 mitragliatrici. I Liberator furono costruiti solo durante la guerra, nella misura di ben 18.000 esemplari. L'aereo, precipitato 200 metri a nord di Malga Penider, venne centrato in pieno dalla contraerea tedesca. Un attimo, per cortesia, questa è Malga Penider, quella che vedete adesso, come si presenta adesso, no? Ecco. Questo è l'edicola che è stata costruita dal proprietario della Malga per ricordare i nomi degli aviatori americani qui morti nella caduta di due aerei, non di uno solo, quello che avete visto prima e poi un altro aereo ancora. Sulla sinistra il capitello che ricorda gli aviatori USA deceduti. Nel libro si vede anche il comandante Lo Stormo. Va pure avanti, scusami. E dunque, l'aereo precipitato 200 metri a nord di Malga Penider venne centrato in pieno dalla contraerea tedesca. Nello scoppio perse i piani di coda, strisciò su un altro bombardiere e cadde a vite. L'equipaggio era composto da 12 uomini, uno solo dei quali riuscì a gettarsi col paracadute. Uscire da un Liberator con l'ingombro del paracadute era cosa problematica, tant'è vero che questi bombardieri furono soprannominati, appunto, bare volanti. Il sopravvissuto era un sottotenente, Leonard Clyde, che prese terra nei pressi del rio Schlamm. Si trascinò alcune centinaia di metri a valle e accese un fuoco, forse per richiamare l'attenzione su di sé. Morì solo. e il suo cadavere fu rinvenuto da un pastore nel luglio successivo. Un altro membro dell'equipaggio venne scaraventato all'esterno dalla deflagrazione. I restanti 10 aviatori vennero rinvenuti carbonizzati all'interno del relitto. Tra questi il tenente Charles Wherry, che il giorno precedente l'abbattimento aveva scritto nel proprio diario rivolgendosi ai genitori: «Questa guerra è un inferno, ma questa è la mia ultima missione. Tra 21 giorni sarò con voi, mi siederò a una normale tavola e dormirò a casa mia». Parole che ai suoi genitori non pervennero mai. Li raggiunse invece un telegramma annunciante il suo decesso. A Malgapenider, San Leonardo di Bressanone, il proprietario del terreno ha fatto erigere a sue spese un capitello che ricorda con una targa i nomi dei 12 aviatori defunti. È stato benedetto nell'agosto del 1998 e nell'occasione è stato ricordato anche un altro bombardiere, abbattuto e precipitato sulla Plose a Rutzenberg il 29 dicembre del 1944. Grazie, grazie. Mi sentite? Sì, che mi sentite. Ecco, va bene. Allora procediamo con un'altra fotografia. Questa l'abbiamo vista. Vedete su in angolo a sinistra? Su in angolo a sinistra vedete un telegramma. È un telegramma che fa riferimento a... è stato scritto dalla questura di Roma alla questura di Bolzano nel settembre del 1943, poco dopo che era stata effettuata la razzia di ebrei al ghetto in prossimità del portico di Ottavia, ghetto di Roma. In quell'occasione furono rastrellati quasi 1000 ebrei che furono caricati su, mi pare, 28 carri merci e trasportati fino ad Auschwitz. Ecco, di questi 1000 tornarono a casa soltanto 16. Per cortesia, potresti andare nuovamente al microfono? Ecco, e leggimi questo telegramma. La razzia degli ebrei romani? Sì. La razzia degli ebrei romani, soprattutto nel ghetto, che fu chiuso e circondato, rastrellato casa per casa, avvenne dalle 5:30 del 16 ottobre. Gli ebrei del ghetto ebbero 20 minuti di tempo per raccogliere le proprie cose. Poi furono radunati nel piazzale a lato del teatro di Marcello, presso il portico di Ottavia, sotto al Campidoglio, e quindi al collegio militare. Da lì, 2 giorni dopo, dovettero incolonnarsi verso la stazione di Roma Tiburtina e salire su un merci che alle 14 del 18 si mosse verso nord. Dopo 6 giorni e 6 notti, immaginabile il tormento per quei poveretti, il convoglio raggiunse Auschwitz-Birkenau. In data 23, nel registro del lager, una penna diligente annotò: trasporto di ebrei da Roma. Dopo la selezione, 149 uomini registrati con i numeri da 158.451 a 158.639 e 47 donne registrate con i numeri da 66.172 a 66.218 sono stati ammessi al campo di detenzione. Gli altri sono stati gassati. Poche parole per descrivere questo dramma. Possiamo andare adesso avanti. Se riesco a fare andare avanti la sequenza delle immagini, ma pare di no. Come funziona questa roba? C'è Patrick? No? Ah, ecco che. Viene il mio amico del computer. Volevo muovermi in avanti con questa immagine. l'ultima, per cui o torna indietro, sono tutte indietro le altre. Ah, sono indietro. Ah, sono indietro, sono fotografie indietro, ho capito. Sì, ho capito. Ecco, allora vediamo un caso di ebrei. E questi sono ebrei di Bolzano. E il personaggio importante, quello che vedete in piedi, è il primario Enzio Polacco, che aveva una villetta in via Manci, e adesso vi abita suo nipote. Quella a fianco è la signora Polacco, quella piccola è la Lola Polacco, che è morta quest'anno, tra parentesi, ed era madre di Alessandro Duce, perché lei aveva sposato, guardate un po' il caso alle volte, aveva sposato un ufficiale della finanza che si chiamava per l'appunto Duce. Duce e il figlio si chiama Pucci. Dunque, l'interessante di questa famiglia è che lui perse il posto perché ebreo. Perse il posto perché ebreo e non era consentito agli ebrei negli ultimissimi anni anni 30 di coprire ruoli pubblici. Lui era titolare della chirurgia all'ospedale di Bolzano, gli fu tolto questa titolarità, fu licenziato e lui se ne andò e si costruì una sua villetta per l'appunto in via Manci. Il costruttore fu l'ingegner progettista e costruttore fu l'ingegner Mariano De Gasperi e lì continuò la sua attività. Al suo posto, nella titolarità clinica chirurgica dell'ospedale civile di Bolzano, che aveva sede non dove si trova oggi, ma aveva sede in via Sarnesi, il vecchio ospedale, ecco, e subentrò il professor Chiatellino, bravissimo chirurgo, che però aveva un vantaggio: era un fervente fascista. Ecco, quando voglio dire una parentesi a questo proposito, voglio aprire una parentesi a questo proposito, che quando ad avvisare Polacco della situazione, che si trovava al momento sul Renon, siamo nel 43, ad avvisare Polacco del fatto che i tedeschi lo stavano cercando, fu un tedesco, fu Friedl Folger, il giornalista Friedl Folger, che fu più tardi divenne senatore della Volkspartei, il quale, scendendo con lui, e non si Polacco non conosceva Folger, lo avvicinò sul trenino, erano solo due in quello scompartimento, anzi in quella carrozza, e gli disse: guarda che i tedeschi ti stanno cercando. E allora Polacco scomparve e avvisò la moglie e la figlia, e il terzetto di notte si allontanò e si rifugiarono presso amici loro a Venezia, nei pressi di Venezia. Ecco, il fatto interessante è che a salvar loro la vita furono dei preti, preti cattolici, salvavano a destra e a manca. ho scritto di recente qualcosa su, per esempio, sui tanti nazisti che sono stati salvati dai preti del convento dei francescani dell'ordine teutonico a Lane, proprio del genere, però salvavano l'una parte e l'altra. Facciamo un'opera degna di considerazione e di merito per entrambi. E Mara, per cortesia, ci sarebbe da leggere, ecco, qualche cosa che è stato scritto dal dottor Franco Kettmeier, che è qua con noi, che conosceva queste persone che io ho citato adesso. Sentiamo un po' cosa mi leggi. Mi ha scritto il dottor Franco Kettmeier, nipote di Mario Kettmeier, che avevo citato nel mio articolo. Ecco il suo scritto. Ho inviato l'articolo sia a Burghi Folger, una cara amica, parente del senatore Folger, che aveva incontrato Polacco mentre scendeva dalla Renon col trenino, pronto alla fuga, e anche a Roberto Artioli, che mi ha raccontato un aneddoto collegato. Sua madre Olga, nel settembre del 43, era appena stata operata di appendicite da Polacco ed era ricoverata nella sua clinica privata di fianco a Villa Brigl. Un attimo, prega, Roberto Artioli è qua con noi, in prima fila. Prosegui pure, Mara. Di fianco a Villa Brigl. A un certo punto entrano fra le corsie un certo numero di soldati in divisa della Wehrmacht, che cercano di trovare dove si fosse nascosto il professor Polacco, che dovevano arrestare. Sparito. Dunque si mettono a bestemmiare alla sudtirolese, parlando in tedesco con le bestemmie in italiano, secondo la prassi in uso ancora oggi, al che Olga, secondo quanto riportato da Roberto, li ha apostrofati con male parole perché disturbavano pazienti doloranti in corsia. Erano parecchi i sudtirolesi che si erano zelantemente messi al servizio dei tedeschi poche ore dopo che la provincia era stata occupata e battezzata Alpenvorland. Finalmente liberati dai fascisti che li avevano maltrattati per 20 anni, avevano pensato di mettersi ad aiutare i tedeschi. Il mio parente Mario Kettmeier era stato subito arrestato dai tedeschi perché giovane ufficiale di collegamento del Regio Esercito Italiano. Liberato molto presto, il professor Chiatellino, il chirurgo che dopo Bolzano era diventato primario all'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma, lo ho conosciuto benissimo. Lo sapevo, un bravo chirurgo, ma non lo avevo mai visto come zelante fascista. Ma erano tempi quelli durante i quali molti non avevano scelta. Volevi lavorare in un ente pubblico? Allora dovevi essere iscritto per forza al partito fascista. Tempi duri. Grazie Mara. Procediamo con le fotografie. Vediamo cosa ci ha messo da parte a questo punto. Oh, questo è un personaggio che avete già visto, del quale vi abbiamo già parlato, ma del quale torno volentieri a parlare. Questo è Don Nicolli. Don Nicolli è stato il cappellano delle carceri di Bolzano ed ha consolato, accompagnato al patibolo numerosi condannati a morte, perché qui a Bolzano e si condannava a morte e si eseguivano condanne a morte, si fucilava qui a Bolzano. Le fucilazioni avevano luogo a Oltrigiarco, in piazza del Bersaglio più o meno, e oppure al tirassegno di San Maurizio. E Mara D'Aroit pensava di essersela cavata, invece adesso la chiamo nuovamente in causa. Pagine tristi. Uno dei primi procedimenti che narro fu quello a carico di Ettore Stenico di San Michele all'Adige, un agricoltore colpevole di avere reciso e rubato un cavo telefonico della Wehrmacht per recuperarne il rame che gli sarebbe servito per ottenere il solfato necessario per irrorare le piante. Condanna a morte, marzo 1944. E Don Nicolli fu incaricato dal procuratore militare Zeiler, che che rivelò con ciò il suo doppio gioco nell'obbedire agli ordini superiori, ma operando contemporaneamente a favore degli imputati per i quali chiedeva la condanna, di comunicare la sentenza di morte ai familiari dello Stenico e successivamente di assisterlo negli ultimi istanti della sua vita. Questo è un personaggio interessante, il procuratore dottor Seiler, tedesco, SS, che faceva il doppio gioco tra Don Canal e Don Nicolli, tra Don Canal, ossia Don Nicolli nella seconda versione, e le autorità germaniche. Tra l'altro ha scritto una lettera che mi è pervenuta, è morto qualche tempo fa anche lui, nella quale spiegava questo suo doppio ruolo. Evidentemente il dottor Seiler, che se era SS doveva avere un buon ruolino di marcia nel settore del nazionalsocialismo, aveva capito che le cose stavano a un certo punto volgendo male e aveva incominciato a proteggersi le spalle, aprendo delle possibilità anche ai condannati tedeschi e italiani, perché qua venivano condannati renitenti alla leva, per esempio, tedeschi e italiani, come nel caso di Stenico. Sentiamo adesso cosa ci racconta avanti. Scrive Don Nicolli, con il nodo alla gola, ma il cuore aperto a qualche vaga speranza. Incominciai il delicato compito di preparare il condannato al grande passo. Gli fui vicino tutto il pomeriggio e il giorno dopo, da mattino a sera, cercando di assecondarlo nei suoi ultimi desideri personali per la mamma, per la famiglia e le persone più care. Dopo la notte, quando è ancora buio, il condannato viene fatto salire su un camion. Io gli sono vicino alla sua sinistra, mentre alla sua destra sta un ufficiale delle SS. Si parte in preghiera e si arriva al vecchio bersaglio di Aslago. Stenico invoca la Madonna, la mamma. Intanto si avvicina il sergentone comandante del plotone e domanda al collega cosa sta facendo il Pfaff, termine dispregiativo per indicare un sacerdote cattolico. Risponde: «Da Kohlensack tut Ave Maria fluchen», cioè il sacco di carbone bestemmia l'Ave Maria. Giunta l'ora, due soldati lo prelevano di peso dal camion e lo legano al palo. Io gli raccomando l'anima e gli do l'ultima assoluzione. Una scarica ed è crivellato di pallottole. Slegato viene messo nella bara già preparata, all'interno un letto di segatura per assorbire il sangue dell'ucciso. Si carica sul camion e salgo pure io, fino al cimitero. E questo è un altro caso. Parliamo di Marincola a questo punto. Chi è Marincola? Il giovane Marincola è quello piccolino, che è la signora che vedete, la donna che vedete alle sue spalle, e sua madre. Ecco, cosa hanno da raccontare questi due personaggi? Una cosa interessante, perché la Marincola, che non era ancora Marincola e che da Somala risiedeva in Somalia, prima della guerra s'accompagnava ad un maresciallo italiano, che era maresciallo Marincola, per l'appunto. Capitava, è capitato a lei, quello che più o meno è capitato a tanti militari nelle colonie, no? Lo stesso Indro Montanelli, per esempio, ha avuto una moglie, perché di moglie si trattava, in Africa. Ecco, nel caso specifico, invece, sento un telefonino, ma non è nostro, ecco. Nel caso specifico invece questo bambino nato da da mamma somala, non fu riconosciuto, come anche Montanelli non riconobbe suo figlio, non fu riconosciuto dalla madre, ma fu portato in Italia, dove iniziò studi anche universitari. Mi pare che il testo successivo sia questo, vero? Ecco. Giorgio Marincola era figlio di un maresciallo maggiore dislocato in Somalia, in un presidio a nord-est di Mogadiscio, e che da una giovane del luogo, la bella Ashiro Hassan, aveva avuto due figli, Giorgio e Isabella, che aveva riconosciuti, consentendo loro così la cittadinanza italiana. Nel 1926 il sottufficiale tornò in Italia, lasciando la compagna in Somalia. Il piccolo Giorgio fu affidato al fratello del sottufficiale Carmelo a Pizzo Calabro, dove iniziò un percorso scolastico che lo portò poi a frequentare a Roma il ginnasio, liceo. Qui il giovane conobbe l'insegnante di filosofia Pilo Albertelli, un antifascista che gli comunicò le sue istanze libertarie. Albertelli, incarcerato, fu ucciso nel 1944 dai tedeschi alle Fosse Ardeatine, 335 morti, per rappresaglia dopo l'attentato partigiano del Polizeiregiment Bozen a Roma, in via Rasella. Ormai studente di medicina, Marincola era frattanto entrato nella resistenza romana. Tra il febbraio e il maggio 1944 venne trasferito dal comando militare del partito nella provincia di Viterbo, aggregato a una banda partigiana. All'indomani della liberazione di Roma, 4 giugno 1944, Giorgio prese la decisione di continuare la resistenza, arruolandosi nelle file dell'intelligence militare britannica. Dopo un breve corso di addestramento, nell'agosto del 1944 fu aviolanciato in Piemonte, nella zona di Biella, come membro di una missione alleata con compiti di guerriglia, collegamento e addestramento. Nel gennaio 1945, dopo numerosi attacchi nel biellese e missioni di collegamento con il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, venne arrestato durante un rastrellamento, condotto al carcere di Biella e costretto a parlare ai microfoni di Radio Baita, una radio di disinformazione tedesca. Durante la trasmissione, invece di leggere il copione sottopostogli, riaffermò la sua convinzione nella libertà e fu conseguentemente pestato dai suoi carcerieri. Nel marzo venne deportato nel lager di Bolzano, che venne liberato il 30 aprile 1945. Ma Giorgio, invece di riparare in Svizzera, come gli era stato ordinato dal comando della missione, preferì unirsi a una banda partigiana della Val di Fiemme. Il 4 maggio del 1945, un'autocolonna di germanici in ritirata, dopo uno scontro a fuoco con i partigiani, attaccò i villaggi di Stramentizzo e Molina di Fiemme, dandoli alle fiamme e uccidendo 27 persone. Tra i 21 di Stramentizzo ci fu Giorgio Marincola. Altre immagini si rifanno adesso, sono un po' disordinato come vedete, non c'è un nesso logico, una conseguenzialità logica di immagini, però dobbiamo veramente tanto al supporto tecnico di Patrick Curru e del giovane che avete visto in precedenza. Tanto per ricordarvi cos'era Bolzano. Bolzano era una città nel 1945 che si presentava così. Era il 62% degli edifici, 62% era stato distrutto o comunque danneggiato, e questo era la chiesa dei Domenicani, Oh, questa è una parentesi che Valeria Trevisan, prima nel rabberciare queste fotografie, mi ha chiesto di introdurre perché è bellina, no? Questo qua, qui siamo negli anni 20, pensate un po', con un torpedone di turisti. Davanti, riconoscete quell'edificio con quelle colonne ioniche dietro? Il Teatro di Merano, sì, esatto. Notate che questo torpedone ha le gomme di gomma piene. È questo che vedete all'incontrario, è lo stesso di prima, che è stato inquadrato, infilato qua. Questa invece è la chiesa dei francescani, come era prima dei bombardamenti. E adesso qua devo andare un po' a soggetto, perché io stesso non riconosco la successione delle foto. Però, credo che non ci sia più molto da dire, perché a questo punto questa l'abbiamo vista, vediamo un pochettino di Marincola, l'avete visto, Don Nicoli l'avete visto, questa l'avete vista, e sono i francescani questi. E ci sono anche delle belle fotografie dei francescani. E io ho servito messa ai francescani dal 45 al 48, e nella chiesa, no, che era stata distrutta dalle bombe, e proprio mentre io con altri ragazzi evidentemente frequentavo il liceo ginnasio, e gli operai costruivano la nuova chiesa. Questa che vi voglio fare, ecco qua, è benissimo, questa è una delle ultimissime immagini. E sapete che cos'è quella? Prima la dottoressa Trevisan, ma cosa ha detto? Cosa sono? Macchine americane? No, non sono americane. Questa è una iniziativa bolzanina notevole, perché questo è il trasporto delle immondizie dalla città di Bolzano. Questa è una fotografia che ti fa vedere, che ci fa vedere i camioncini, ce ne sono degli altri nella foto originale, e mi pare 4 camioncini in tutto, che procedevano a batteria, vetture elettriche. Pensate, nel 38, 39, 40, io queste vetture me le ricordo nel dopoguerra, ancora nel 1945-46, e passavano di cortile in cortile, raccoglievano i bidoni, ne avete visti prima, che vedete anche qua sulla sinistra. E poi queste immondizie venivano trasportate al fiume, eccole qua. Questo è un colpo di tosse che non c'entra. Dunque, targata Bolzano 3184, qua si scaricano le immondizie raccolte nei cortili di Bolzano, tra cui quello della casa mia. E dove le si scaricano queste immondizie? Nell'Isarco. Niente differenziata, sia ben chiaro, era già un grandissimo passo avanti buttarle così nell'Isarco, il quale serviva da pattumiera. D'altro canto, le rogge bolzanine che attraversavano Bolzano negli anni 80, 80 del 1800, erano rogge multiuso, servivano per la produzione di energia elettrica, c'erano delle piccole centraline, c'era servivano per i mulini Ressler, per esempio, servivano anche per addirittura per me, tanto onore, ecco, servivano anche per lavare i panni. Le lavandaie lavavano i panni dei bolzanini inginocchiati in via della Roggia, i quali i bolzanini ci mettevano le camicie belle bianche stirate, lavate nella stessa acqua che trasportava queste immondizie. Forse c'è ancora qualcosa da vedere, ma questa ve la voglio. Mi direte cosa c'entra questa. Ma questa è stata una mia fissazione da bambino, una paura da bambino. Questa che dovrebbe essere riprodotta in orizzontale, ma mi è stata inserita nel libro, non nel libro, qua, in verticale, è Santa Teresa d'Avila. E quando che si trova in, nella chiesa dei Cappuccini di Bolzano, andatevela a vedere che è molto bella, e io la quale chiesa adesso è senza Cappuccini tra parentesi, non ci sono più, ecco, ho capito che magari, che bravo che è questo giovane, ecco qua. E per me era una cosa, era un fascino per me questa donna, perché mi avevano detto che questa è Santa Maria, Teresa d'Avila morta, e in effetti è Santa Teresa d'Avila morta, però è di cera. Ma io pensavo da ragazzino, da bambino, che fosse vera, quindi mi accostavo con due occhi sbarrati, che non dico, è una paura terribile, e non notavo che questa giovane morta aveva gli occhi semichiusi, la bocca semichiusa o semiaperta, a seconda che vogliate dire, come fosse in un'estasi, in un abbandono. Ha inoltre i piedi nudi. È un motivo di una certa sensualità. Ecco. Con quest'ultimi colpi di tosse, io vi ringrazio di essere intervenuti, di essere qui rimasti a sentire queste mie chiacchierate. È andata abbastanza bene, mi pare. Siamo rimasti nei tempi. Sono arrivati anche i potenti mezzi della RAI nel frattempo. E grazie ai potenti mezzi della provincia autonoma vi ho potuto proporre anche delle belle fotografie. Dovute alla selezione di Ettore Frangepane, che quanto a mezzi potenti è proprio a terra, perché si è dimenticato, ha fatto